Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Sai a cosa pensavo? Che cominciare sempre con bentornati a Chiedo Asilo potrebbe diventare siamo tutti appeso un filo, bevuto la grappa, e tu dici e ho bevuto lo spago. Ma suona bene, no? Proviamo. Hai capito? Vabbè, dai. Allora, siamo tutti appesi a un filo, ho bevuto la grappa e ho bevuto lo spago. Sentite, è quasi uguale. Sì, però non vuol dire niente. Come? C'è questo piccolo particolare. Ma come fai a bere lo spago? Gli spaghi al massimo si mangiano in numero di due, anzi di due spaghi. Questo è molto divertente. È divertente. Sì. Guarda, oggi un bambino su due ha la mascherina contro lo smog. Sono stati lanciati allarmi allarmanti, si può dire così, no? Allarmi preoccupanti, preoccupazioni preoccupanti da parte di tutte le autorità preposte. Perché, le autorità autorevoli. L'aria di Milano è addirittura pericolosa per i bambini. È come la peritonite, molto pericolosa per i bambini, l'aria di Milano. Non capisco cosa stai dicendo, comunque poveri bambini milanesi, costretti a respirare una cosa che ormai non ha più niente a che vedere con l'aria come dovrebbe essere, cioè l'aria è fatta in un modo, quello come che respira ossigeno in un bambino, e invece qui c'è ossigeno più idrogeno, quello è l'acqua poi. No, vabbè, non comunque. Non so, Drago, io di chimica lo sai che la chimica di una solito matematica c'ho la fame di chimica. Vabbè, infatti i bambini di Milano si ammalano le vie respiratorie il doppio dei bambini siciliani e il 35% in più dei bambini italiani che abitano lontano dalle metropoli. Il dilemma è sempre lo stesso da ormai 50 anni. Meglio la campagna o la città? Ne parlava già il bambino cilentano 40 anni fa. Anche il bambino Gaber, non c'era quella canzone vieni in città, vieni in campagna, che c'erano i due amici che discutevano. Non me la ricordo. Vabbè, i bambini veri però stanno bene in campagna, secondo me. I bambini cresciuti, quelli come noi, adulti, stanno meglio in città, perché la città offre più. Ma non lo so, scusa, ma è meglio avere l'aria buona e però essere depressi di sera perché non c'è niente da fare e stai lì e guardi il camino, oppure respirare tutto il giorno e anche la sera l'aria inquinata, però avere un sacco di occasioni, no? In città e un sacco di occasioni, persone da conoscere, le ragazze, tutto quanto. Comunque io direi che la carriera, se uno sceglie la carriera, sceglie la città, il divertimento e le attrattive della città, però si sceglie anche una vita di vie respiratorie malate, di bronchiti, di polmoniti, insomma tutte queste cose dovute allo smog. Potrebbe essere uno spot. Vieni a Milano, potresti essere tu il prossimo supereroe con la broncopolmonite. Punto da un chiodo arrugginito. Aia! Il timido impiegato Edoardo Bacetti ha subito la straordinaria trasformazione. Ottenendo febbre e nausea proporzionali a quelle di un ammalato di tetano. Nonché una portentosa sensibilità agli spifferi che gli permette broncopolmoniti fulminanti al semplice contatto con l'aria. Munito di formidabili colpi di tosse, questo impavido supereroe combatte contro i più malvagi criminali, cercando di mantenere una parvenza di normalità nella sua vita. Dalla mente di Horace Geralt, le avventure dello stupefacente uomo malato. No, fighissimo, l'uomo malato, Edoardo Bacetti, vedi qui. Ma scusa, il supereroe è un eroe malato. Qui ha un ascesso. Infatti. E con l'ascesso se lo spreme. Ma no, infatti, un po' splatter, però è bellissimo. Splatter è come, bene. Sai cos'è? Splatter come quel bambino che a Torino ha bestemmiato in classe e le maestre gli hanno pulito la bocca con il sapone. A Torino è successo. A Torino, ne parliamone, perché bestemmiare è brutto. Quindi, certo, sicuro. Un bambino che bestemmia è brutto da vedere e anche da sentire. No? Però un bambino che bestemmia non sa quello che dice. Quindi. Quindi cosa? Quindi non serve a niente pulirgli la bocca col sapone, piuttosto sarebbe meglio spiegargli con calma e gentilezza che non si bestemmia! Hai capito? Non si bestemmia! La punizione del sapone in bocca sa di antico, no? No, sa di sapone. Vabbè, dai, è come i ceci sotto le ginocchia. Una volta per le punizioni si usavano i prodotti che si avevano sotto mano, no? Nel caso dei ceci, sotto ginocchia. Ma cos'hai fatto? Un corso accelerato di umorismo verbale? Non ho capito. Perché? Dai, io come al solito cerco di fare qualche considerazione intelligente e tu divagli. Quale considerazione e quale intelligente? Vabbè, una maestra elementare che lava la bocca a un alunno non sta bene. Tutto lì, chiuso il discorso. Erano in due. quindi vabbè, non stanno bene tutte e due, hanno dei problemi. Ma no, invece secondo me potrebbero essere le avanguardie di un grande cambiamento. Ah, va, lo faceva mia mamma questa, anzi no, lo no, facevano no, a mia mamma sta roba del sapone, una volta l'ho fatto. Ah sì? Sì sì, ero per piccolo, cosa? Cosa ma non mi ricordo. L'hai bestemmiato, no, eri già allora. No, vabbè, ma che vabbè. Bestemmiato, non so, vabbè. Avevo 4 anni. Sì, però tu pensa invece se sia così l'inizio di un grande cambiamento, no? Immagina se prima o poi le forze del male riusciranno a trasformare l'Italia in uno stato di tipo confessionale, no? Tipo l'Iran, però cristiana. La bestemmia sarebbe pulita pubblicamente di domenica mattina, cioè, no? In tutti piazza. I grandi bestemmiatori in fila, sì. Le mani legate dietro la schiena e la bocca aperta ad aspettarsi la bella sciacquata di sapone. Sì, non so, quelli del Grande Fratello, Leopoldo Mastelloni, Enzo Maiorca, tutti. Beh, anche il bambino premier. Ma cosa dici? Dai, dai, la barzelletta Margherita, Margherito, Rosa, Rosa, Orchidea, eh? Ti ricordi? Sì, ma lì non era lui che parlava. Ma come no? Era lui che parlava. Ma no, era il protagonista della barzelletta che bestemmiava. Il premier, in quanto narratore, si è poi dissociato da quanto detto dal suo personaggio, no? Ma chi sei, Umberto Eco? Bravo! E ora, bambini, ricreazione! Guarda che facce smorte, tutti depressi, ma va, anche dai. I bambini ma depressi. No, ma i bambini, guarda che piace venire all'asilo. A te piaceva venire all'asilo quando eri piccolo? Chi si ricorda? Anzi, andare all'asilo. Voi due, non è che non ci avete mica una amichetta col formaggino? Una? Ma Brambilla Alberto. Ancora su quel povero albero a fare le prove per la piccola vedetta, sempre no, lì. No, un attimo, chi è Brambilla Alberto? Brambilla Alberto. Chi? Tu, sei tu. Bambino diventa Brambilla, no? Così non ti storpiamo più il nome e sei contento. Ma io non mi chiamo mica Brambilla Alberto, no? No, ho capito. Brambilla però è un cognome milanese, bello. Va bene, no? Per la piccola vedetta lombarda, Brambilla Alberto. Allora, ve l'avevo già detto, no? Allora, che la piccola vedetta lombarda si chiamava Giovanni Minoli. Non Brambilla, no? Brambilla, uno lo conosceva di Brambilla, che abitava vicino a casa mia. Sì. Era il Brambilla, no? Tu, ho visto il Brambilla. Lo chiamavano così. Sì. Però poi è andato sotto un tram. Ma chi? Povero Brambilla, Brambilla! E si è fatto male? Insomma, è morto. È morto. Vabbè, comunque per rispondere alla tua domanda di prima, bambino Alberto, non abbiamo alcuna amichetta col formaggino, anche perché non ho mai visto nessuno andare in giro con pane e formaggio in perché? Tasca, così alla bisogna. Vabbè, ma io la chiedevo, merenda. No? Che male c'è a chiedere? Magari ce l'avevi, no? Sì. E se ce l'avevi me la davi. Sì, ma tanto le vedette, scusa, non mangiano, no? Le vedette sono sempre lì, allerta, sull'albero. Devono vedere se arriva il nemico, quindi mica sì. Il tempo di mangiare. Sì, ma faranno due turni, no? Come due turni? Ma scusate, siamo sicuri che nel libro cuore non ci sono due vedette lombarde che quando sale una scende l'altra? No, mi sembra di no. Poi, tra l'altro, la piccola vedetta lombarda non era mica uno della truppa, Non era... Cioè, era un bambino che per caso diventa una specie di eroe. Quindi... Sì, un eroe. Diciamo che è una vittima della guerra, perché di eroico non combina niente. Sta un po' sull'albero, poi lo fanno fuori, cioè. Sì, ma qui c'è anche il problema della pipì, Ma vabbè, la pipì è facile, la fai dall'albero. Veramente? Dai. Cioè, posso farlo? Ma certo che puoi, se ti scappa la fai. Ma no? Scusa, Kappa, non è meglio se scende va al gabinetto come tutti gli altri? Ma non può scendere, è la vedetta. Vero che non puoi scendere? No. Cioè, non so, cioè, loro mi dicono, sali sull'albero, no? E io salgo. E poi però nessuno viene a dirmi di scendere, no? E io lo faccio da qui. Ma cosa? La pipì! Ma no, dai, non è una bella cosa fare la pipì da un albero. Cosa? Ma tra l'altro è interessante perché la puoi fare e vedere se il getto è continuo dal pistolino alla terra. No, vabbè, ci sarà. Se fa un getto continuo. Continuo. Secondo me riesce a fare un getto di 100 metri, 150 metri. Ma basta, io l'ho sperimentato, questi discorsi qui, dai. Cioè, quindi, fare la pipì dall'albero perché uno non ce la fa più, non va bene. E no che non va invece bene. Invece uno stormo di corvacci neri che fanno la cacca tutto il giorno sull'albero, quello va bene. Vabbè, ma i corvi sono corvi e tu sei un bambino educato, o perlomeno dovresti esserlo, quindi niente pipì e vieni giù come tutti gli altri. Vabbè, ma come faccio? La tieni. Ma no, ma è sempre così? In macchina devo tenerla, sull'albero devo tenerla. Ma ti devi abituare a controllare le esigenze del tuo organismo, ormai sei grande, sei grandicello. Sì, io sono grande solo quando fa comodo a voi, se no sono un bambino che non conta niente. Ma non è vero, no? Guarda che conti, scusa, sei il più piccolo eroe del risorgimento. Sì, però adesso, bambino Alberto, scendi, così puoi mangiare, fare la pipì. No, dai, io non scendo. Dai, scendi, dai, bambolotto Alberto, non farti sempre pregare, dai. Ho detto che non scendo. Io sono la piccola vedetta lombarda, Io devo stare sull'albero con controllare che non arrivino i nemici. Guardo lì, guardo là, vedo fino alla città, sono la piccola vedetta lombarda. Se il nemico verrà, certo non mi può sfuggire. Ma